Registrazione a cura di Scatola Nera. Il contenitore multimediale. Buonasera a tutti, buonasera al Molino. Siamo qua questa sera. Mi trovo in questa insolita veste di presentatore della serata. Cioè, introdurrò un attimino quello che è un discorso che abbiamo fatto anche ieri a Bergamo con la presentazione di Altai. Cercando di prima di tutto di non svelare lo spoiler, diciamo, della l'anticipazione del libro, ma di puntare un po' lo sguardo su alcuni temi. Qua con noi ci sono Wuming 2 e Wuming 5, due dei quattro ormai rimasti partecipanti al collettivo Wuming, quindi un progetto che ha parte delle sue origini nel Nuclear Blister Project e che si è sviluppato appunto negli ultimi 10 anni, perché appunto si festeggia il decennale quest'anno di Wuming come collettivo di scrittori che scrive in maniera collettiva le proprie opere, le distribuisce anche in formato telematico gratuitamente, quindi ha operato una scelta specifica di quello che fa, diciamo, e appunto stasera sono qua con noi per presentare l'ultimo lavoro, Altai. Altai diciamo una specie di continuum ideale con Q, quindi la prima opera collettiva scritta da alcuni dei partecipanti al progetto Wuming sotto il nome Luther Blissett Project, e che andava a narrare le rivolte contadine, ma anche le rivolte eretiche soprattutto nelle pianure tedesche del 1500. Quindi questa era un po' la collocazione geografica e storica di Q. Qua ci spostiamo di qualche anno e ci spostiamo da un'altra parte d'Europa, ci spostiamo sul Mediterraneo da Venezia a Costantinopoli, a Istanbul, dove poi si svolgono buona parte delle vicende narrate in questo libro. Siamo in una fase successiva alla fine di Q, quindi ci spostiamo verso la fine del XVI secolo, e cambia proprio un po' anche l'approccio, e questo lo vedremo magari dopo. Vorrei partire appunto con voi a farci raccontare un po' questo libro, per chi l'ha letto e per chi anche non l'ha letto, nel senso trovare una narrazione anche della trama di quello che si trova nel libro. Quindi chiedo a te, Giovanni, se vuoi fare questa parte, diciamo, introduttiva. Sì, dunque, il libro nasce fondamentalmente da una sensazione di incompletezza, in parte anche di insoddisfazione rispetto alla rilettura che abbiamo fatto di Q dopo una decina d'anni che non lo prendevamo più in mano, anche perché con il nostro metodo di scrittura collettiva di solito quando consegniamo un libro all'editore più o meno lo abbiamo letto ad alta voce in riunioni plenarie almeno 6-7 volte, per cui dall'inizio alla fine, per cui non ci capita proprio mai di riprendere in mano i libri e di rileggerli, non ne abbiamo voglia, e lo abbiamo fatto soltanto in occasione di questo decennale, perché da parte della casa editrice c'era stata la proposta di fare una nuova edizione semplicemente rispetto a questa, con una copertina diversa e magari una postfazione di che cosa era successo nel frattempo, no? che aggiornasse magari chi era rimasto al progetto Luther Blissett e non conosceva gli sviluppi successivi. mettesse un po' in prospettiva il lavoro. E allora, insomma, sulla base di questo invito abbiamo ripreso in mano il romanzo, l'abbiamo letto e ci siamo resi conto, insomma, che inevitabilmente, insomma, la prima cosa che abbiamo scritto c'era una serie di elementi che oggi non avremmo messo sulla pagina nello stesso modo, una serie di scelte che non avremmo rifatto, no? Questo è normale, ma in particolare una ci lasciava più insoddisfatti ed era il protagonista principale del romanzo, che se da una parte è, diciamo, uno dei motivi anche di maggior successo, no? Del romanzo stesso, il personaggio che pur non avendo nome rimane molto impresso, chi di solito legge il romanzo rimane impresso con il nome Gert dal Pozzo, che è quello che utilizza più spesso, ma in realtà ne cambia tanti. Un personaggio che noi avevamo costruito come patchwork, come mosaico di varie identità, quasi tutte reali, quasi tutte trovate nei libri di storia, ma che noi avevamo incollato l'una con l'altra, trasformandoli in un'unica identità multipla invece che in più identità. Per fare questo, avevamo costruito un personaggio, tutto sommato, funzione, cioè un personaggio che aveva lo scopo di far attraversare questa vicenda di eresia, repressione dell'eresia, ripresa della lotta in contesti diversi, secondo modalità diverse, aveva la funzione di far attraversare questo contesto al lettore, di prenderlo per mano e di portarlo attraverso questo scenario, ma lo faceva con un bagaglio molto leggero, no? Sicuramente una delle morali, se vogliamo, insomma, uno dei messaggi che si potevano trarre dal libro era proprio quello di mantenersi in movimento con un bagaglio leggero, però per quel protagonista lì era molto facile avere un bagaglio leggero, perché tutto sommato non aveva radici, non aveva passato, non era nessuno. Noi, il romanzo comincia che lui ha più o meno è a metà dei suoi 20, tra i 20 e i 30 anni, fa lo studente a Wittenberg, ma non si sa niente del suo passato. E non c'è mai una volta in tutto il romanzo in cui pensi al suo passato, pensi, non so, alla sua famiglia, a sua madre, a suo padre, a chi erano i suoi parenti, a che cosa gli hanno passato. Non ha un bagaglio con cui fare i conti in realtà. Allora era questo, insomma, il motivo di insoddisfazione, l'aver costruito un personaggio nomade che in qualche modo passa da una rivolta all'altra, si porta sempre dietro un fiammifero acceso per incendiare una nuova prateria. Il suo fascino è probabilmente proprio in questo, nel fatto che una delle poche cose che ha nel suo bagaglio leggero è la rivoluzione, no? Un altro scrittore, Paco Ignazio Taibo, fa dire a un suo personaggio, questo Sébastien San Vicente, del libro che qui in Italia si chiama Rivoluzionario di Passaggio, che la rivoluzione non è qualcosa che uno trova, ma è qualcosa che uno si porta dietro, no? E effettivamente il personaggio di Q questo fa, se la porta continuamente dietro in nuovi contesti e la declina sempre in maniera diversa, a volte in maniera disastrosa, altre volte in maniera più costruttiva, però tutto sommato quasi mai, quasi sempre senza voltarsi indietro, quasi sempre andandosene 5 minuti prima che le cose sbacchino completamente. Senza prendersi troppe responsabilità, rispetto a quello che si lascia alle spalle, andandosene tutto sommato sempre da solo, cioè trovando una fessura, una via d'uscita, dalle situazioni attraverso la quale riesce a passare lui e il suo bagaglio leggero e il suo fiammifero acceso, ma non molto altro, non si tira dietro qualcos'altro, e tutto sommato, anche alla fine del romanzo non c'è molto più che lui. Per certi versi illuso di aver trovato un fuori, di aver trovato una situazione ormai esterna rispetto alle guerre di religione che ha vissuto per tutti i primi 50 anni della sua vita. L'ultimo capitolo di Q si chiama appunto Fuori dall'Europa, proprio perché appunto vuole simboleggiare questo aver trovato una via d'uscita, ed effettivamente c'è questa illusione da parte del personaggio, che dice, non non ci hanno sconfitti finché siamo ancora liberi di solcare il mare, altri proseguiranno le lotte, in qualche modo ormai lui si sente più che cinquantenne, quindi sembrerebbe ormai finito il suo ciclo, sembra augurarsi che appunto questa fiaccola che lui si è portato dietro qualcun altro continui ad utilizzarla, ma lui per sé dice ci spetta il tepore dei bagni, no? E entra in un hammam e si fa un bagno caldo. Allora ecco, questo finale, che allora ci sembrava giustificato dal fatto che avevamo portato in giro questo individuo multiplo per più o meno 35 anni a passare da una rivoluzione all'altra, ci sembrava che effettivamente sì, un bagno gli spettasse, no? alla fine di tutto quel percorso, e che la riflessione sul fatto, la riflessione non pessimista, no? Non sconfittista, sul fatto che tutto sommato nemmeno il potere ha mai un piano che possa tenere conto di tutto, e che quindi c'è sempre un fattore umano che sfugge anche al calcolo di chi vorrebbe imbrigliare qualunque ribellione, qualunque rivolta, potesse essere una buona conclusione per quel tipo di romanzo. Però appunto, riprendendolo in mano 10 anni dopo, non ci soddisfaceva. Allora abbiamo pensato appunto di costruire non una postfazione che rendesse conto di che cos'era successo nei 10 anni successivi a Q, ma di renderne conto di che cosa era successo soprattutto a noi e intorno a noi attraverso un altro romanzo che a Q si collegasse, ma che non fosse in realtà un vero e proprio seguito. Quindi noi non riprendiamo in questo romanzo il protagonista di Q a Istanbul, Costantinopoli nel 1555, nel punto dove lo avevamo lasciato. Intanto sono passati 15 anni nella fascetta che l'editore ha voluto sopra il romanzo. C'è scritto 15 anni dopo l'epilogo di Q, cioè 15 anni dopo l'epilogo di Q vuol dire che il romanzo si svolge 15 anni dopo quell'epilogo, non è 15 anni dopo l'epilogo di Q, quindi non è l'epilogo di Q, ecco. No, perché io credo che sinceramente succeda a pochi altri scrittori che vengano contestate addirittura le virgole di una fascetta che ti hanno messo sopra il romanzo, però invece, ma va bene, noi da un certo punto di vista noi stessi siamo abituati a contarci un po' i peli addosso, e va bene che lo facciano anche gli altri con noi, però siamo stati criticati perché era ambiguo. 15 anni dopo l'epilogo di Q poteva sembrare che noi volessimo spacciare il romanzo come l'epilogo di Q 15 anni dopo, in realtà di anni reali ne sono passati 10, non 15, 15 sono passati nella storia del romanzo. E quindi noi apriamo Altai, che è il 1569, il protagonista che conduce la vicenda, che guida le mosse del romanzo per tutta la prima parte, è un personaggio che non abbiamo mai incontrato in Q, è un personaggio nuovo, è un personaggio invece con un passato e delle radici molto pesanti, che deve fare molto i conti con questa dimensione, con la dimensione delle radici, che nel suo fare i conti con l'identità e criticare anche no, elementi del dispositivo identitario, deve però fare i conti anche con le radici, perché quello che c'è di irrinunciabile nelle proprie radici e su quello che invece si può modificare, no? Sicuramente è un personaggio che pian piano si fa un'identità, ma che deve fare i conti con l'identità che aveva, mentre il personaggio di Q è appunto un personaggio che si fa un'identità senza averla, tutto sommato, no? E nessuno di noi, nessun personaggio reale è così. Direi che da questo punto di vista Emanuele De Zante, che poi diventa Manuel Cardoso, perché non c'è credo un solo nostro romanzo in cui un personaggio abbia un solo nome, e anche in questo abbiamo rispettato la regola, pian piano si fa un'identità che in parte consiste all'inizio in una riscoperta delle sue radici ebraiche, giudee, che lui aveva completamente rinnegato per mettersi al servizio della Repubblica di Venezia, diventare sostanzialmente uno spione, fare carriera come spione nella Repubblica di Venezia, ma qualcosa va storto in questo suo programma, è costretto a scappare da Venezia, e in questa fuga pian piano riscopre la sua ebraicità. E come spesso avviene quando uno riscopre in questo modo, nel corso di una fuga da qualcos'altro, le proprie radici, ci si attacca in maniera fin troppo morbosa, no? Incontra un personaggio invece a Costantinopoli questa volta, perché la fuga lo porta verso Costantinopoli, dove incontrerà un personaggio molto affascinante, Giuseppe Nasi, che come João Miques compariva anche nell'ultima parte di Q, ebreo che ha grande fortuna a Costantinopoli, molto ricco, consigliere commerciale del sultano, suo fornitore di vino. Il sultano Selim II non era un sultano particolarmente guerresco, amava starsene mollemente seduto sui cuscini del palazzo e bere vino. Già questo, insomma, no, è la prima piccola crepa nella visione del mondo musulmano che poi pian piano, anche noi studiando, abbiamo aperto, abbiamo sempre più allargato, no? Ed era uno, poi è diventato uno degli scopi del romanzo, anche proprio dare un punto di vista sull'impero ottomano un po' più storico, ma un po' meno usuale. Rimane molto affascinato da questo ebreo perché questo è un ebreo che ce l'ha fatta. Cioè, mentre in tutto il resto d'Europa gli ebrei vengono perseguitati, inquisiti, scacciati in maniera strumentale dai vari paesi per poter mettere le mani sui loro patrimoni, ecco qua un ebreo sulla vetta del mondo. Lui ha sempre pensato che essere ebrei sia una sfiga, che sia un marchio, che immediatamente produce stigma e che immediatamente produce problemi, ed è uno dei motivi fondamentali per i quali ha rinnegato questa sua identità, ed ecco che invece trova un ebreo sulla vetta del mondo, a fianco del sultano, che sta per diventare il primo re ebreo dopo la caduta del regno di Giuda nel 72 d.C. Quindi sono 1500 anni che non c'è un re giudeo e lui sta per diventarlo. Perché? Perché ha consigliato a Selim II, come visto che tutti i sultani tradizionalmente dovevano fare una conquista nei primi anni di regno e Selim II era appena salito al trono dopo Solimano il Magnifico, che era suo padre. Solimano il Magnifico invece grande guerriero, che aveva portato i confini dell'impero molto più ad ovest, Giuseppe Nasi consiglia a Selim di conquistare Cipro. Cipro era un'isola veneziana, era in una posizione strategica nel Mediterraneo orientale, era un'isola che però già pagava un tributo al sultano, no? E già questo è un'altra crepa, perché noi nella guerra di Cipro, che poi finisce con la battaglia di Lepanto, vediamo questo grande scontro di civiltà, in realtà uno scontro tra vicini, no? Già appunto i veneziani, per tenere Cipro, siccome tradizionalmente comunque era uno stato vassallo dell'impero ottomano, in qualche modo non erano proprio vassalli ma pagavano una tassa tutti gli anni, quindi. Però ecco, Nasi gli consiglia di prendere Cipro e finanzia l'impresa, ci mette i soldi perché è un mercante ricco ebreo, e Selim gli promette la corona dell'isola, che era un regno, e quindi di diventare re di Cipro. E Nasi, che con la sua famiglia è sempre stato impegnato a trovare nell'impero ottomano, che con gli ebrei era molto più tollerante di tutto il resto d'Europa, un luogo dove poter vivere tranquilli, aveva sempre, diciamo, cercato di tirar dentro anche uno per uno alla volta i profughi ebrei dall'Europa. Giuseppe Nasi ha l'idea che Cipro possa diventare la terra promessa. Quindi un'idea da un certo punto di vista pressionista, se vogliamo, nel senso: facciamo uno stato per gli ebrei e io sono il re Davide, il nuovo re Davide. Dall'altra parte, non sionista per come conosciamo, no, quel movimento oggi, nel senso che appunto c'è una terra promessa che viene presa come ideale, no? Non è quella terra lì, non è Eretz Israel. Lui non vuole, anche se in Asia avevano fatto un progetto di colonia già a Tiberiade, dove avevano mandato dei coloni ebrei che venivano difesi con le armi dai giannizzeri, perché già allora le tribù arabe intorno non ne volevano sapere, no? Di questa colonia a Tiberiade. Quindi Emanuele De Zante in questo contesto ritorna ad essere Manuel Cardoso, un ebreo sefardita, cioè di quegli ebrei che avevano vissuto in Spagna fino al 1492, che poi erano stati espulsi dall'Inquisizione. E da lì in poi comincerà la sua collaborazione con Giuseppe Nasi e in un secondo momento con il re di Vivo, protagonista di Q, che si rimaterializza senza anticipare troppe cose in quel di Costantinopoli, ormai settantenne. E con una buona dose di energie ancora, perché effettivamente noi abbiamo spesso l'idea che all'epoca ci fosse una speranza di vita più bassa di oggi, ed è vero, ma questo soprattutto è dato dalle medie fatte con la mortalità infantile, cioè una mortalità infantile molto superiore, quindi facendo la media si ottiene una speranza di vita molto più bassa. In realtà chi riusciva a superare i 50 anni poi spesso aveva una buccia talmente dura che andava parecchio avanti. Lo stesso ammiraglio Venier della flotta della Lega Santa a Lepanto, che fu uno degli ammiragli che guidò la flotta veneziana a Lepanto, aveva più di 70 anni, no? Quindi, Anche l'ala Mustafa. l'ala Mustafa Pascià, che assedia Famagosta nel famoso assedio in cui poi viene giustiziato Bragadin, scuoiato, eccetera, che noi facciamo vedere, aveva anche lui più di 70 anni. Carafa, il nemico numero uno di Gert dal Pozzo, diciamo così, per il tramite di Q in Q, anche lui diventa papa ormai a 80 anni, quindi non è un anacronismo troppo grosso. E ecco, questi insomma un po' in maniera introduttiva i temi e la vicenda del romanzo. Poi, dopo questo momento, diciamo, di riscoperta delle radici e quindi l'entusiasmo del neofita che si ritrova, Manuel Cardoso comincerà invece, grazie anche alla vicinanza con Ismail, cioè Gerd dal Pozzo, e alla partecipazione attiva all'assedio di Famagosta e alla battaglia di Lepanto, comincerà a capire invece un po' di cose in più rispetto a questa sua riscoperta identitaria e a come funzionano i meccanismi dell'identità, no? E quindi a come fare i conti con le sue radici senza sostanzialmente mettersi per forza l'elmetto in testa. E questo lo porterà al finale, che ovviamente non svelo. Una cosa interessante, secondo me, che è stata affrontata in questa prima, diciamo, narrazione di quello che è questo libro, del perché Gunging anche ha deciso di scrivere questo libro, nel senso che comunque è una cosa strana. Un autore normale, tra virgolette, avrei detto ok, facciamo la ristampa, ci mettiamo sopra il bollino e una bella postfazione nuova, e invece questo senso di soddisfazione rispetto a una loro opera li ha portati ad arrivare con questo con Altai. Quindi questo secondo me già è un dato importante. Una cosa che diceva Giovanni prima rispetto a questa Cipro, l'isola di Cipro che viene vista appunto come una terra promessa, però ecco, è la terra promessa e la diversità appunto con quello che si diceva un movimento sionista è che quella è la terra promessa non degli ebrei e basta, è l'ebreo visto come il profugo, come il fuggiasco, il rifugiato, il rifugiato politico, è la terra per tutti, perché appunto anche Manuel Cardoso è questo, è scacciato, è allontanato, deve scappare, quindi viene vista questa nuova, appunto, questa nuova frontiera di Cipro come appunto un regno dove gli ebrei possono vivere in pace, ma dove possono vivere in pace tutti, senza distinzione. Quindi questa è una differenza secondo me interessante. Questo tema del fuggiasco, del profugo, ma anche appunto dell'identità multipla, della pluralità personale di appunto Manuel Cardoso, che prima si chiamava Emanuele Zante, Gerd dal Pozzo, che adesso si chiama Ismail. È uno degli elementi, secondo me, principali della scrittura di Gunging, così con questo tema dell'identità molto, molto centrale, molto importante. Quindi volevo chiedervi un po' il lavoro che ci sta dietro, dato che anche in Q, diciamo, da cui parte questi personaggi comunque molto tormentati e molto plurali, molto, molto sfaccettati, che sono personaggi probabilmente più maturi, tra virgolette, rispetto al periodo in cui sono posti, ecco, quindi sì. volevo chiedervi questo. Direi che hai gettato moltissime carne al fuoco. Cominciamo con ordine. Tra le motivazioni che ci hanno spinto a riprendere in mano Q c'era sì l'insoddisfazione immediatamente autoriale rispetto a quello che consideravamo un finale non soddisfacente e un personaggio complessivamente che non ci soddisfaceva più. Ci sono anche motivi che si ricollegano poi alla seconda parte della tua domanda. C'è anche un'indagine sulla nostra identità di gruppo, no? Nell'immediata vicinanza appunto della stessa realtà abbiamo perso uno dei nostri membri, nel senso che si è ritirato dal collettivo per problemi personali che non è il caso di esplorare in questa sede, e quindi noi eravamo alla ricerca in qualche modo di noi stessi, e probabilmente il modo migliore per andare a farlo era andare a vedere da dove eravamo partiti come narratore, specie in un libro invece che aveva visto appunto il nostro compagno che ci veniva a mancare come uno dei protagonisti, delle persone che sono più votate insomma alla causa di Q in tutti i sensi, quindi era anche un modo per interrogare noi stessi su quello che rappresentavamo come identità collettiva, come noi abbiamo questa visione di Wuming non come somma delle nostre personalità, ma in qualche modo come davvero un'entità da un certo punto di vista. Era un'entità che a un certo punto della propria traiettoria artistica, creativa, professionale, esistenziale e politica veniva a perdere un membro, no? E quindi avevamo questa sindrome dell'arto fantasma, sentivamo qualcosa che pulsava, che ci faceva male quando cambiava il tempo, e il modo migliore probabilmente per andare a curare questa nostra mancanza era proprio andare a interrogarci fino in fondo sui motivi che avevano generato la prima opera, che è attraversata come tutto il nostro lavoro, come dicevi giustamente, da problemi di identità. Noi non è che abbiamo cercato di risolvere questi problemi con Altair, abbiamo cercato semplicemente di inquadrarli da una prospettiva che per noi era inusitata. Raramente i nostri personaggi sono caricati dal fardello delle radici. In Manituana sì, Manituana è la nostra opera precedente che ha come protagonisti indiani d'America del XVIII secolo che erano gravati appunto del peso dei clan, delle famiglie eccetera eccetera, quindi lì abbiamo dovuto fare già un passo in questa direzione, no? Però ad esempio come diceva Giovanni, in cui il nostro modo di affrontare il problema era semplicemente leader, no? È un personaggio senza identità, funziona da serbatoio a distanza, tutti ci identifichiamo in lui perché è un figo, perché è un rivoluzionario, e bene, va bene così, che problema c'è, no? Era una risposta che poteva andarci bene 10 anni fa, chiaramente non ora. Dopo tutto quello che ci è successo anche dal punto di vista appunto della biografia del signor Wuming, quindi questa motivazione secondo me è forte, altrettanto pesante e precisa, oltre a quella immediatamente artistica. Forse anche se Q ci fosse piaciuto un casino alla rilettura, forse ci saremmo tornati sopra proprio per questo motivo qui, perché comunque per noi era doveroso andare a ricostruire la nostra immagine ideale, la nostra aura Wuming in un altro modo, no? Andare a ricomporla senza quel membro e senza però sentirci mutilati, ecco. Credo che questo sia anche uno dei motivi per i quali siamo riusciti a compiere quella che per noi è un'impresa, cioè scrivere un romanzo di dimensioni più o meno simili a quelle che facciamo di solito, in realtà in un tempo macchina brevissimo, ci abbiamo messo 15 mesi, mentre per Manituana erano stati 30 o 32, quasi 3 anni, 2 anni e mezzo, una cosa incredibile, no? Quindi ci siamo proprio sottoposti a un lavoro, a ritmi di lavoro che non avevamo mai affrontato, proprio perché avevamo questa urgenza, no? Questa, che è immediatamente emozionale, no? Questo attiene anche a un'altra sfera di incomprensioni che ci sono state specialmente in passato e specialmente all'estero sul lavoro del collettivo, ad esempio fino a un certo punto della nostra carriera, il mondo anglosassone ha pensato che noi fossimo quattro intellettuali postmoderni o cinque all'italiana, no? Che si mettono insieme a scrivere romanzi come se fosse un divertimento intellettuale, per dimostrare a qualcun altro che ok, possiamo farlo. Invece noi siamo motivati da tutte altre motivazioni, siamo autori che credono in maniera non fanatica, però credono in maniera molto profonda in quello che scrivono, anche come contenuto emozionale. Credo insomma in parte di aver risposto, se poi Giovanni vuole integrare. Sì, c'è questa cosa che dicevi sulla identità e identificazione, no? Credo che da qui in avanti noi abbiamo cominciato a lavorare sempre di più con personaggi con i quali non è così facile identificarsi, no? Abbiamo sempre più spesso messo sulla pagina dei protagonisti delle nostre storie con i quali quando leggi probabilmente ti trovi in molte situazioni, diciamo, a tra virgolette fare il tifo per loro, ma non diventano mai il tuo eroe, no? E non diventano mai quelli con cui ti identifichi completamente. C'è sempre qualche elemento che ti stona, che ti fa dire no, però non mi piace fino in fondo, no? Ecco. Quindi se uno per esempio misura quanto gli piace un libro da quanto gli piace il protagonista, cioè da quanto riesce a sentirsi simile al protagonista, non tanto gli piace come è stato costruito, ma gli piace nel senso che vorrebbe essere lui o vorrebbe sposarselo o vorrebbe essere lei, una di queste tre cose, probabilmente i nostri libri più recenti gli piaceranno di meno in realtà, perché noi andiamo proprio a mettere in crisi e questo fa parte del ragionamento sull'identità, anche il meccanismo di totale identificazione col quale a volte gioca la letteratura, e in particolare anche la letteratura di genere popolare, il tipo di letteratura che facciamo noi, è un altro dei dispositivi con i quali cerchiamo di confrontarci rendendolo il meno banale possibile. Ecco, a volte è molto semplice tutto sommato produrre identificazione, no? E mettere sulla pagina un personaggio che appunto stimoli un tifo immediato, emotivo, e che però non ti interroghi mai, no? Invece, ecco, cerchiamo di mettere sulla pagina sempre di più dei personaggi che producano degli scarti e quindi che facciano sorgere degli interrogativi, delle domande, delle cose che non ti tornano. Da questo punto di vista sicuramente Manuel Cardoso è anche un farabutto, è inizialmente una spia, è uno che per il 90% del romanzo è alla ricerca di un padre e quindi sostanzialmente di un'autorità e quindi sostanzialmente di un potere al quale devolversi, no? Di un potente da servire, da venerare, che gli faccia da mentore, che gli dica per che cosa combattere, che gli dia una ragione per muoversi. Lui proprio lo dice, no? A un certo punto dice: io sono abituato a prendere ordini nella forma di qualcuno che mi dice che cosa cercare, che rapporti fare, che cosa scoprire, dove andare a mettere il naso, e se non ce l'ho mi sento perduto. Tant'è vero che appunto passa sostanzialmente tutta la prima parte del romanzo è la storia di una sua fuga, ma anche in realtà dal punto di vista del trovarsi un padrone semplicemente non è la storia di una fuga ma di un passaggio. Lui si trova un altro capo da cui dipendere, e da questa situazione, diciamo, svicola soltanto alla fine. Non dico come, però ecco, da questo punto di vista, no, può essere un personaggio in qualche modo, ed è il protagonista del romanzo, ed è l'io narrante del romanzo. Ora, non c'è però lo stesso meccanismo che c'è per esempio in un libro come Arrivederci amore ciao di Massimo Carlotto, no, dove il protagonista, per cui ogni tanto ti trovi a fare il tifo perché è in difficoltà e quindi è proprio una merda, cioè è proprio un personaggio e lì ti stupisci ogni tanto, no? Per quel poco di identificazione che ogni tanto provi, quel poco di tifo che fai per lui, dici, cacchio, sto facendo il tifo per questo qua, bastardo. No, per un bastardo. E allora che cosa c'è? Che cosa c'ho dentro, no? Che mi fa... È semplicemente un meccanismo letterario, per cui vabbè, mi hai messo sulla pagina 1 che ha delle difficoltà e quindi e tutto è visto dal tuo punto di vista. Oppure faccio il tifo per il bastardo anche per qualche altro motivo, no? Il bastardo che è in me. C'è qualcosa nel suo punto di vista che alla fine mi sta piacendo, no? E quindi sicuramente ti pone degli interrogativi. Manuel Cardoso non lo è fino a questo punto. Però, ecco, non soddisfa comunque questo bisogno di identità, tutto sommato, che ha il lettore, no? Quindi cerchiamo di portare anche fuori dal libro, in un certo senso, la critica dei meccanismi identitari. Vorrei integrare anche dicendo che questo è un romanzo che abbiamo scritto perché assolutamente affascinati dal contesto, no? Dal contesto storico e dal contesto di personaggi, perché a volte, diciamo, giustamente uno quando parla di un testo narrativo, non potendo poi raccontare tutta la storia in una situazione come questa, finisce per fare delle analisi e magari per dimenticarsi il lato anche più emozionale, no? Il lato anche più narrativo. Cioè, noi abbiamo scritto questa storia perché era una storia che ci ha affascinato e ci sembrava valesse la pena di mettere sulla carta questi personaggi e quel periodo storico. Nessuno di noi è uno storico di professione, quindi tutti noi partiamo da una conoscenza tutto sommato banale della storia, che è più o meno quella che hanno un po' tutti, no? Quelli che dopo il liceo non hanno fatto più di tanto degli studi specifici, se non magari andandosi a leggere ogni tanto dei saggi, qualcosa che gli interessava. E quindi siamo in realtà la miglior cartina al tornasole per capire quando su un certo periodo storico si ha un punto di vista molto unilaterale. Ed effettivamente quando abbiamo cominciato a interessarci dei dintorni della battaglia di Lepanto, ci siamo resi conto che poteva essere molto interessante fare un rovesciamento di punto di vista e vedere quella battaglia con gli occhi di chi l'ha perduta, con gli occhi di chi è stato sconfitto, scoprendo già da subito, per esempio, che appunto quella battaglia faceva parte di una guerra più vasta, la guerra per Cipro, dove in realtà i turchi conquistano Cipro, e alla fine della quale il gran visir dell'impero ottomano dice all'ambasciatore veneziano, distruggendoci la flotta a Lepanto voi ci avete tagliato la barba, e la barba ricresce, prendendovi Cipro noi vi abbiamo tagliato un braccio e il braccio non ricrescerà. Ed è quello che succede: 2 anni dopo l'impero ottomano ha di nuovo la flotta, no? Quindi questa decisiva battaglia di Lepanto, che poi non si combatté nemmeno a Lepanto ma a circa 40 miglia, quindi parecchia distanza, come dire, non so, da Bologna a Parma, quindi proprio un altro mondo, questa battaglia non fu realmente una battaglia decisiva, no? E allora, ecco, ovviamente materiale storico di storici sia turchi che medio orientali che anche europei che hanno visto le cose da quel punto di vista lì ce n'era, noi ce lo siamo andati a leggere, appunto perché non storici di professione, non è che facciamo delle ricerche sulle fonti primarie se non proprio in minima parte, e abbiamo tradotto tutto questo appunto sotto le mani avevamo elementi affascinanti, non so, per dire, il romanzo si apre, quindi non rovino nulla, però il romanzo si apre con un incendio che avviene nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1569 a Venezia, esplode l'arsenale, quindi il cuore di Venezia, il simbolo della potenza veneziana, boom, un botto, un grande incendio, fuoco, e subito comincia a circolare la notizia che questo incendio sia un attentato e che la colpa sia di questo attentato, il mandante di questo attentato sia il nemico pubblico numero uno, il demonio, il piglia in culo del sultano, Giuseppe Nasi. Quando per esempio ci è saltato agli occhi, no, questa cosa, che è in qualche modo l'evento iniziale che poi comincia a far rotolare le cose verso la guerra di Cipro e verso Lepanto, abbiamo detto, cavolo, interessante, no? Probabilmente ci sono anche dei parallelismi con l'oggi, no? E con gli scontri di civiltà odierni. Andiamo a vedere se continuano ad esserci elementi di questo tipo, e abbiamo continuato a trovarne, soprattutto a trovare elementi che mettevano completamente in crisi l'idea di scontro di civiltà con la quale spesso viene letta la battaglia di Lepanto e tutto quel periodo, no? Quindi appunto Islam contro Occidente, veneziani contro ottomani, e in realtà trovando invece tutta una serie di personaggi e di situazioni che mettevano in evidenza un mescolarsi di interessi, la presenza di un vasto partito pacifista che aveva pacifista che voleva evitare la guerra, mercantilista in qualche modo, che voleva continuare i commerci ed evitare la guerra, che aveva nel Gran Visir il suo protagonista principale, che in realtà nell'impero ottomano tutta questa ossessione per il Mediterraneo non c'era. Sokollu Mehmet Pascià aveva già cominciato a guardare all'Oceano Indiano, aveva già l'idea che il Mediterraneo fosse una partita che non valeva la candela, aveva un progetto per tagliare il canale di Suez. Insomma, abbiamo cominciato a trovare elementi che ci sembravano affascinanti ed emozionanti, e su questo abbiamo costruito la storia, che, e concludo, come accade quasi sempre nei nostri romanzi, è la storia di anche di una sconfitta, perché sicuramente c'è un progetto che non riesce, ma un romanzo che non è, credo, un romanzo sconfittista, che non è un romanzo che si chiude nel raccontare la sconfitta, ma da un lato cerca di far emergere quali sono state le dinamiche che hanno portato alla sconfitta. E basta dire che una delle dinamiche è, per esempio, il fatto di avere completamente dimenticato un 50% del mondo, cioè le donne, che nell'impero ottomano erano tutt'altro che inattive, tutt'altro che chiuse dentro l'harem, no? E di non essere riusciti a comunicare progetto fondamentalmente maschile, quello che viene messo in campo nel romanzo, di uomini che non riescono a comunicare con la parte femminile, non riescono a capirla, non riescono a capirne le domande, ne vengono continuamente messi in crisi, ma in qualche modo passano oltre, senza porsi troppi problemi, sempre puntando all'obiettivo, in qualche modo alla presa del palazzo d'inverno, al potere, se vogliamo. Sconfitte che vengono analizzate nel loro farsi, e che poi vengono analizzate anche nel loro disfarsi, cioè in che cosa rimane oltre quelle sconfitte. Molto spesso, per capire un po' quello che volevamo dire, che cerchiamo di dire con i romanzi che scriviamo, bisogna fare i conti con che cosa galleggia sulle acque del naufragio, cioè sì, c'è una sconfitta quasi sempre, ma che cosa riesce ad andare oltre, che cosa riesce a passare oltre la sconfitta. Dicevo prima, in Q c'è un personaggio che quasi sempre trova un pertugio, un passaggio segreto, un'uscita di sicurezza, dalla quale però passa soltanto lui, il suo cerino acceso e poco altro. In Altai passa molta più roba, no? E in questo credo ci sia anche una riflessione rispetto a Q e un cambiamento rispetto a Q. Ci sono almeno tre elementi che passano, e sicuramente quindi la fessura è anche più larga, e dunque c'è anche una riflessione su come allargarla per non passare da soli, ma per far passare anche qualcos'altro. Allora, un altro, ecco, si discuteva di Lepanto. Lepanto è visto come mito fondativo del cristianesimo più intransigente. In Altai viene un po', diciamo, smontata questo mito fondativo, viene visto dagli occhi ottomani. Abbiamo un impero ottomano, un impero, un regno musulmano che è diverso da come c'è descritto nello scontro di civiltà di chi, associazioni ultracattoliche piuttosto che una certa destra presenta appunto Lepanto come il momento in cui il cristianesimo ha sconfitto il male, il diavolo, l'Islam. C'è un mondo che è completamente diverso, un mondo che è completamente veramente a tinte completamente diverse rispetto a come ci viene presentato. Ecco, una cosa che mi è balzata agli occhi, che secondo me è interessante, è il tema del meticciato sia dei personaggi che dell'ambiente, nel senso una Costantinopoli che non è monolitica, non è monoconfessionale, non è omogenea da nessun punto di vista, e gli stessi personaggi sono comunque misti, sono meticci, sono bastardi nel senso forse più bello del termine. Quindi ecco, questa è una cosa interessante. Volevo chiedervi, rispetto anche a tutto il lavoro di studio, di ricerca storiografica, questa descrizione di Costantinopoli così brulicante, così piena di lingue, di religioni, di popoli. Ecco, volevo un po' chiedervi questo, non so chi dei due. Sembra però che partiamo da dei presupposti quasi meccanici, cioè nel vero punto di vista gli ottomani sono i buoni e i cristiani sono i cattivi. Anche qui non è così semplice, in realtà chiaramente la relativa tolleranza dell'impero ottomano era appunto una relativa tolleranza, lo era in relazione al modus operandi dei governi europei cristiani eccetera eccetera. Quindi è giusto in un certo senso anche rivendicare il fatto che l'impero ottomano ci viene descritto secondo modalità irrealistiche, no? Dalla vulgata storica, dalla propaganda di destra o dei cattolici tradizionalisti eccetera eccetera, però non era neanche un paradiso, sostanzialmente. Paradisi in terra non ce ne sono mai stati. È vero però che la Costantinopoli che descriviamo noi è un luogo affascinante per definizione, perché è una città che ne contiene tre, sono tre città, cioè la città vecchia, no? La cosiddetta Stambu, oltre il Corno d'Oro c'è Galata, che è la città appunto dei Franchi, che è una città europea, una città in tutto e per tutto indistinguibile da una città del centro Europa, con chiese, mercanti genovesi, c'erano già molti francesi, veneziani. Ed era davvero una città europea di fianco alla città vecchia che si stava turchizzando sempre più. Non dobbiamo dimenticarci che al momento in cui noi mettiamo la telecamera in testa a Manuel De Zante, Istanbul, Costantinopoli è turca da poco più di 100 anni, mentre prima era la capitale di un grande impero cristiano. Quindi, chiaramente già questo ti dice che non ci può essere nulla di monolitico in una situazione del genere. E in più è proprio una riflessione che abbiamo già fatto ieri anche a Bergamo, abbiamo fatto molte volte, è proprio la natura, è nella natura dell'impero posto il problema di chi è cittadino di un impero o no, e 100 volte su 100 l'impero non risponde mai su una base etnica. I turchi non avrebbero mai potuto dire solo i turchi sono sudditi del sultano, sarebbe stato completamente assurdo, sarebbe stato un non impero sostanzialmente. Anche gli imperi del centro Europa, anche l'impero austro-ungarico paradossalmente garantiva la diversità molto più degli stati-nazione che sono sorti dopo. E anche qui non è perché i turchi sono più buoni, è la loro forma di governo che lo impone, è proprio la struttura del loro modo di concepire il dominio che lo impone. Che impone appunto una relativa tolleranza. Tolleranza è una parola che Giuseppe Nasi usa in un contesto specifico nel romanzo per descrivere metaforicamente il modo in cui funziona l'impero. Allora fa l'esempio di come funziona una squadra di muratori a Istanbul, in cui chi fa l'impalcatura di legno, che per il modo di costruire turco è l'ossatura vera e propria della casa, di solito sono turchi, ma chi fa le fondamenta sono greci o armeni, chi dirige i lavori sono spesso ebrei o chi li finanzia, eccetera, eccetera. Questo è appunto una metafora del come funzionano le cose in un impero. Credo che in tutti gli imperi che sono durati più della vita del fondatore questo problema si pone, e inevitabilmente credo proprio che la forma impero risolva il problema in maniera paradossalmente più aperta e meno ossessiva dello Stato-Nazione, questo sostanzialmente. I personaggi, i personaggi. E questo tema del meticciato nei personaggi, nel senso sì, è un correlato di quello che dicevamo prima. L'impero ottomano non è un impero dispotico, cioè il sultano non è un despota, è un impero burocratico, fate conto una specie di impero cinese, no? In cui ci sono livelli di burocrazia gerarchici molto strutturati, in cui c'è una meritocrazia, nel senso tu accedi a cariche sempre più alte in base a quello che hai fatto, non c'è una nobiltà di sangue, è proprio un impero burocratico. E in questo impero burocratico tu puoi arrivare alle alte cariche anche se non sei nato turco. Un modo per accedere alle alte cariche dello Stato è quello di servire come soldato il sultano, e chi lo fa in maniera eminente non è turco di nascita, perché in genere è un balcanico, è un serbo, è un bosniaco, è un albanese, è un greco che viene prelevato dall'esercito turco in giovane età attraverso un meccanismo che chiamano tassa del sangue o leva del scirme, viene islamizzato certamente, viene reso turco dal punto di vista culturale e islamico dal punto di vista religioso, ma attraverso, diciamo, questa cooptazione poi può accedere alle cariche più alte dello Stato. In pratica è un impero in senso lato turco, è l'ottomano. Diciamo, il vertice culturale e politico dell'impero ottomano non è propriamente turco, tant'è vero che uno che si considera ottomano chiama turco praticamente chi vive in campagna in quel momento. Cioè, e questa classe dirigente è una classe dirigente, noi diremmo oggi, meticcia, o dal punto di vista culturale, anche proprio dal punto di vista genetico, no? Biologico. Diremmo noi, lo stesso sultano non è mai turco al 100% perché è sempre figlio di una schiava. E anche questo a me sembrava molto interessante, insomma, questo mega impero burocratico completamente alieno rispetto al modo di concepire la sovranità, eppure così interno alla storia europea. Questa finta diatriba se la Turchia deve entrare o meno in Europa, la Turchia in Europa c'è sempre stata, Istanbul sorge in Europa. L'epicentro del potere ottomano prima della conquista di Istanbul non è in Anatolia, è Adrianopoli, che è in Tracia, oggi ai confini con la Grecia. Quindi, per dire, i turchi sono sempre stati in Europa, sempre stati da quando sono arrivati, ci sono sempre stati. È come dire che i Rom non sono europei, in che senso? Sono qui dal 900 d.C. Sono sempre stati qui. Una delle cose che mi è balzata più agli occhi proprio di panza leggendo Altai è una cosa che già ieri abbiamo un po' affrontato. Allora, Q, vabbè, anche forse per il suo contesto storico all'interno di una certa fase particolare per il cosiddetto movimento, ma non solo, era il libro, da come l'ho letto io, dell'azione collettiva, del muoversi, della moltitudine che si ribella e che combatte, molto collettivo. Ti faceva sentire, da un lato, immedesimato al personaggio, quindi ritorniamo a quello che si diceva prima, dall'altro lato proprio al centro o comunque parte di un... di alcuni sommovimenti che erano appunto collettivi, erano comuni, erano condivisi. Da anche un certo punto di vista, io ci vedo le grandi piane dell'Europa centrale, dove ci sono questi contadini con quei forconi che combattono gli eserciti e che si ribellano, e quindi queste pianure piene di persone. In Altai invece ho trovato un passaggio che forse è anche segno del nostro tempo, quindi un ritorno al singolare per certi versi, un ritorno all'io più che alla moltitudine, usiamo questo termine abusato negli anni passati, ma voglio dire, a mio avviso comunque comprensibile e pertinente. Quindi c'è un ritorno un po' al singolare e anche per certi versi a un conflitto, un tema di conflitto fatto anche con gli intrighi di palazzo, con le trame, con gli accordi, quello che si diceva prima, che comunque Venezia e l'impero ottomano è una guerra fra vicini, una guerra anche commerciale, una guerra comunque diplomatica per certi versi di equilibrio di potere. Quindi c'è un passaggio da, appunto, secondo la mia lettura, da Altai, questo noi gridato, a una visione più singolare, anche dandogli una lettura, appunto, politica e anche legata a alcune fasi che il cosiddetto movimento sta attraversando. Quindi volevo chiedervi se ve la sentivate questa cosa, se è una lettura che può essere condivisa o ci trovate qualcosa altro anche da dire, ecco. Ma da dire subito mi viene che cioè, sicuramente la tua lettura è corretta, è fondata, anche se c'è quello che dicevo all'inizio, no? Qui in realtà ha molto a che fare con un individuo. È un individuo multiplo, è un individuo che cambia identità, è un individuo, è un protagonista che cambia continuamente luogo, ma molto spesso, appunto, ripeto, la soluzione che egli trova ai vari contesti è una soluzione fatta su misura per lui, per se stesso. Tutto sommato, le cose, diciamo, per queste moltitudini in lotta, in cui quasi mai vanno a buon fine, e quasi sempre quello che se ne trae d'impaccio è questo individuo, no? Questo rivoluzionario di professione che, esaurito il suo compito in qualche modo in un certo contesto, si sposta in un altro, cercando di portare sicuramente gli stessi temi, rimodellandoli a volte in maniera anche troppo estrema, no? Però è quasi sempre tutto sulle sue spalle. Il momento il momento della soluzione, il momento in cui si lotta contro il problema è collettivo, però il momento della soluzione molto spesso collettivamente non riesce e diventa individuale. Però sicuramente è vero che in Q parte dell'identificazione non è soltanto col personaggio, col protagonista, ma è con le masse dei contadini, no? Lì in cui i contadini siamo noi, no? Gli assediati a Munster siamo noi, che riflettiamo sui pro e i contro proprio del farsi assediare. In Altai credo non siamo, cioè, appunto, dicevo, è più difficile immedesimarsi in Manuel Cardoso. Probabilmente noi siamo gli ebrei in Altai, no? Nel senso, siamo un popolo che in quel momento è alle prese con una diaspora, con una forte disgregazione. È un popolo che non, sì, probabilmente ha delle radici forti, ma non riesce ad esprimerle da nessuna parte, che è un popolo che riesce a trovare, diciamo, una spiaggia dove approdare nell'impero ottomano, ma poco alla volta, no? Per piccoli, la metafora che viene utilizzata è che gli israeliti verranno strappati uno alla volta dalla bocca del leone, no? E siamo però anche questa popolazione meticcia del Mediterraneo, tutto sommato, perché è vero che Costantinopoli viene presentata come metropoli meticcia, ma è vero che in realtà viene anche affermato che è tutto il Mediterraneo, no? Non soltanto questa strana città ad essere meticcio. E però, ancora una volta, è un meticciato che non è facile, che non è un pranzo di gala, insomma, no? Che non, perché a volte si rischia di avere questa immagine un po' che io sintetizzo nel concetto di world music che aveva agli inizi Peter Gabriel con la Real World, no? Cioè, prendo una balalaica, prendo uno che suona la cornamusa, prendo un didgeridoo, li metto assieme e faccio la world music, e viene sicuramente qualcosa di bello, perché c'è il didgeridoo, c'è la balalaica, c'è la cornamusa. Non è un pranzo di gala, no? Non è, adesso, oh, banalizzo quello che faceva Peter Gabriel, ma per dire che sicuramente Manuel Cardoso dimostra anche questo, che in realtà scardinare le identità, cercare di farsi un'identità, di farsi una cultura, però facendo i conti con la cultura che si ha e l'identità che si ha, perché in ogni momento se ne ha una e si cerca di metterla in divenire, beh, non è semplice, ecco. E allo stesso modo la convivenza prospettata da Nasi, questo tamul, questa tolleranza, questa idea che il castigo di Dio per gli uomini tutti uguali che volevano costruire la torre di Babele in realtà non sia un castigo ma sia una correzione, che Dio lì si sia accorto che aveva fatto un errore, aveva fatto gli uomini tutti troppo uguali, e questa uguaglianza li rendeva superbi, dediti a progetti inutili come costruire una torre per arrivare fino al cielo, un'idiozia, e allora dice vabbè, ho sbagliato, devo metterci una pezza, facciamoli diversi, no? E dona all'umanità la diversità. Quindi c'è anche questo, a un certo punto Nasi fa questa reinterpretazione del passaggio della Torre di Babele, dice non è stato un castigo, è stato un regalo di Dio, no? Il confondere le lingue. Però sì, è stato un regalo, che però sono di quei regali che sono anche un pacco, no? Perché non è mica facile, ecco. E credo che Altai cerchi anche di fare questo discorso. Rispetto a quello che dicevi, quindi è vero, è vero che questa dimensione collettiva c'è meno, cioè almeno non si dà immediatamente, ed è anche uno dei motivi per cui poi il progetto di Nasi fallisce, perché è un progetto calato dall'alto, basato sugli intrighi di palazzo, basato sulla presunto bisogno degli ebrei e dei fuggiaschi d'Europa di avere una terra promessa, ma questi ebrei e questi fuggiaschi d'Europa non vengono minimamente coinvolti nel progetto. Cioè non c'è assolutamente un processo di partecipazione che parta dal basso, diremmo, no? E di costruzione di una soggettività che poi va a prendersi eventualmente questa terra promessa, ragionando poi se appunto sia più o meno corretto, più o meno efficace andarsi a prendere una terra promessa, però non c'è nemmeno la costruzione, no, di questo popolo, ed è una delle critiche quasi più sioniste di Nasi che Manuel Cardoso gli rivolge. Dice ma qua noi andiamo a prenderci la terra promessa, ce la facciamo prendere dall'esercito ottomano, perché in realtà la guerra di Cipro non ci sarà un ebreo a combatterla, no? E lui, preso da questo suo trip identitario del momento, dice beh, almeno i nostri antenati, Giosuè e quegli altri, si sporcarono le mani loro, no? Andarono a fare loro il genocidio, questo è terribile, però la cosa che lui dice è noi non siamo coinvolti in realtà, no? Non andiamo a suonare le trombe intorno alle mura di Gerico, ma mandiamo qualcun altro, e questo creerà dei problemi. Ed effettivamente crea dei problemi, no? E in parte, però, criticando anche la soluzione di Manuel, lo dice anche il vecchio Ismael. Dice quando tu hai un obiettivo, quando tu hai un fine, i mezzi che scegli cambiano il fine. A seconda dei mezzi che tu scegli, tu in realtà ti ritrovi da un'altra parte, tu hai ottenuto qualcosa di diverso. E appunto, dice, mentre se tu vai a cacciare la lepre con i cani, col falco o con l'arco, beh, quello che pigli alla fine è una lepre, è sempre una lepre. Se tu cacci la libertà, dipende come la vai a prendere, no? E se addestri dei cani per riportartela indietro, probabilmente ti riporteranno indietro una libertà da cani. E quindi quello che manca è proprio quel soggetto collettivo che dicevi tu. Però in realtà poi nel finale, tra le cose che galleggiano sulle acque del naufragio che dicevo prima, invece in qualche modo un piccolo soggetto collettivo, strano, meticcio, una famiglia non basata su padre, madre e figli, c'è. E uno spazio per un progetto di questo tipo c'è. Quindi sì. Sicuramente qui in realtà precede, no, tutta la il momento di movimento che comincia con la battaglia di Seattle, perché è del marzo 99, però sicuramente insomma, no, qualcosa si annusava, l'esistenza di un soggetto di quel tipo, probabilmente si cominciava ad annusare, quindi la cosa che probabilmente veniva più naturale fare a uno scrittore era offrire forse delle risposte a un soggetto che già si stava formando, no? Fornire anche un'epica a quel tipo di soggetto, un mito, no? Un mito di lotta che aiutasse quel soggetto a vivere, perché poi i miti è questo che fanno, no? Non devono essere scritti solo per questo, perché altrimenti rischiano di diventare dei compitini tecnici che fanno la loro funzione e basta, e questo è una cosa che noi abbiamo poi anche spesso rischiato di fare, che adesso cerchiamo di evitare il più possibile, forse ai tempi di Q è un rischio che abbiamo corso di più. Oggi questo soggetto a cui dare le risposte probabilmente non c'è, e quindi viene più da fare un'operazione maieutica attraverso le storie, cioè porre delle domande che, così come appunto le domande di Socrate facevano nascere un'idea, una posizione in chi si confrontava con lui, allo stesso modo Altai nel suo piccolo, in maniera appunto maieutica, cerca probabilmente di porre delle domande che potrebbero essere domande che fanno partorire qualcosa, che fanno che sono prerequisiti di un crearsi di una nuova soggettività, non lo so, però sicuramente quelle domande vanno poste, ecco, e noi le abbiamo messe in forma di romanzo perché quello è il nostro mestiere, insomma, quindi in realtà stiamo parlando, bene sempre a ripeterlo, di una storia, ecco, di un romanzo fondamentalmente di spionaggio, avventura, guerra anche, perché in realtà poi le scene moltitudinarie, sebbene uno non si identifichi in quella moltitudine, ci sono, c'è l'assedio di Famagosta, che è più moltitudinario di così, 200.000 ottomani sotto le mura della città, e anche quella è una riflessione sull'opportunità del farsi assediare, no? Perché tutto sommato la fine che fa Bragadin spogliato è un monito rispetto all'opportunità degli assedi. Una cosa secondo me importante è che appunto stiamo parlando di un libro, e questa sembra banale, sembra una cazzata, ma è così. Quindi una cosa secondo me interessante è capire quanto il libro può emozionare, può piacere, nel senso, io l'ho trovato avvincente, nel senso che lo prendi e lo leggi, ma anche per tutta una serie di descrizioni e un lavoro che c'è dietro, che è molto fine, molto, molto ben costruito, ti passa davanti agli occhi delle immagini molto vivide di quella che era probabilmente la situazione dell'epoca, i colori della città che davvero sono quelli del Mediterraneo e non sono più quelli freddi, un po' grigi, di Q, molto plumbei. Ma sono dei rossi che sono i tramonti sul Bosforo, come potrebbero essere i broccati dei palazzi. Quanto c'è di lavoro storiografico e di ricerca minuziosa delle fonti? Si diceva ieri anche le parole, l'utilizzo proprio del linguaggio rispetto a questo libro, quanto è importante il vostro lavoro e come appunto riuscite a fare tutto questo in quattro persone. Ci riusciamo meglio. No, questa è la parte del lavoro collettivo che viene meglio, insomma, sono... Cioè che è più facile. È più facile smastarci pagine e pagine di documentazione in quattro che da soli, questo sicuramente è così. No, per quanto riguarda, noi facciamo opere di ambientazione storica e teniamo evidentemente al fatto che il contesto venga ricostruito nei termini più fedeli possibili. Siamo anche... arriviamo quasi fino all'ossessione del particolare rispetto a questa cosa qui. Però, come diceva Giovanni prima, non siamo storici di professione, quello che ci interessa appunto è costruire un contesto vivido, realistico, senza castronerie, senza anacronismi evidenti, in cui puoi poter inserire delle minime forzature, giocare su sull'estendere i confini del plausibile, rendere i contesti tali da poterci poi muovere dei personaggi altrettanto interessanti sopra, no? Se no sarebbe un lavoro relativamente sterile, quello di dire ok, faccio un romanzo in cui l'ambientazione è fenomenale, però ci sono dei manichini che ci si muovono dentro. Non è così, noi cerchiamo di mantenere l'equilibrio appunto tra l'efficacia della ricostruzione e il lavoro sui personaggi, anche perché pur se no diventerebbero delle opere mostruose dal punto di vista dell'impegno, non ci vorrebbero 15 mesi, probabilmente 15 anni, no? Per fare un lavoro come dire, perfetto da un punto di vista e dall'altro. Siamo stati molto attenti nel il punto è, se non avessimo scritto nell'Ottocento probabilmente bastava rendere un colore di un'epoca, no? La storiografia non era giunta, come dire, a livello di definizione di non c'erano così tante scuole di storiografia. Noi oggi, anche da semplici profani dilettanti della storia, abbiamo accesso a una quantità di informazioni mostruosa. C'è internet, noi andiamo a digitare, possiamo essere consapevoli quasi in tempo reale non solo degli avvenimenti anno per anno, ma anche del modo in cui la gente viveva, no? Delle mentalità che persistevano nel tempo, della storia materiale, di tutte queste cose qui che rendono in qualche modo vitale essere molto minuziosi nel ricreare i contesti, perché poi sennò la gente ti spernacchia e dice vabbè, cos'è che stai facendo fare questa gente in questo contesto completamente reale. Però non è, ripeto, il centro emozionale del nostro lavoro la bravura nel ricostruire il contesto, anche perché probabilmente noi scriviamo romanzi storici perché è il modo più efficace che conosciamo per parlare dell'oggi. Il nostro non è un interesse propriamente storico, ma paradossalmente noi facciamo una specie di cronaca, no? di cronaca parallela e obliqua del quotidiano che attraversiamo. Se vuoi integrare, Giovanni. No, dico solo una cosa, perché accennava Carlo alla questione della lingua. Si riferiva al fatto che a un certo punto, in una fase di a volte già in fase di stesura dei capitoli e poi soprattutto in fase di lettura, abbiamo per esempio eliminato tutte le parole italiane che a quel tempo non esistessero già, quindi cercando non soltanto ovviamente di evitare cronometro o televisione, ma per esempio non so, avevamo scritto che una tal cosa aveva una certa traiettoria ci sembrava una parola di etimologia latina e quindi tutto sommato pensavamo si utilizzerà, in realtà non era utilizzata in quel contesto e quindi l'abbiamo sostituita con parabola. Formidabile. In altri casi invece abbiamo fatto il contrario, c'era per esempio, avevamo scritto in un capitolo l'espressione treno di pensieri, treno effettivamente veniva usato già ai tempi come successione di cose concatenate, ma a un lettore di oggi se scrivi treno di pensieri alza la mano e dice vabbè, treno, allora cronometro, allora televisione, che cazzo è, no? E quindi per esempio treno di pensieri non l'abbiamo usato. Molto del lavoro sulla lingua è stato fatto anche sul suono delle lingue del Mediterraneo, quindi ci sono molti inserti di parole, a volte anche intere battute di dialogo, che sono prese dalla lingua franca che veniva parlata nei porti del Mediterraneo, dal giudesmo, che era la lingua che parlavano gli ebrei spagnoli, sostanzialmente un castigliano un po' modificato, arcaico, scritto con una grafia un po' diversa e una grammatica un po' diversa, e poi ci sono tutte le altre lingue, c'è l'arabo, c'è l'ebraico, c'è il turco ottomano, il turco invece più basso, ci sono delle parole in dalmatico, che è una lingua scomparsa, che si parlava a Ragusa, dialetto veneziano ovviamente, tutto questo chiaramente cercando di rendere tutto sempre comprensibile, quindi non ci sono chiaramente il dialogo in cui si svela chi è l'assassino, non è in giudaismo, ecco, che uno non capisce niente, dice vabbè, no, ci sono dei passaggi accessori in qualche modo che sono fatti per sentire anche il suono che faceva il Mediterraneo, quindi appunto non solo il colore, non solo l'odore, non solo le scene vivide, ma a volte le scene vivide sono ricostruite anche attraverso il suono stesso della lingua, insomma non è un preziosismo, non è una cosa per far vedere, sai che c'è, siamo andati a studiare, siamo andati a vedere, perché poi tra l'altro oggi non è neanche particolarmente prezioso con le risorse che hai su internet, effettivamente anche dei ricercatori dilettanti come noi riescono a trovare, no, dizionari di questi linguaggi, eccetera, eccetera, ma era proprio per far sentire anche la musica, il suono di questo, che suono fa il meticciato, no? Che effetto fa anche sentendolo, e quindi anche sulla pagina abbiamo fatto questo tipo di operazione, oltre che sull'italiano ovviamente. Registrazione a cura di Scatola Nera, il contenitore multimediale. Maggiori informazioni su scatolanera.noblogs.org.